Storielle. Storiacce di Raffaella Calandra. Fedelissimi di Gheddafi, pronti a sostenerlo ovunque, gruppi di terroristi pronti a spaccare, anche con azioni eclatanti, il fronte degli stati in azione contro la Libia, insospettabili, integrati in Occidente, pronti a muovere la loro jihad. L'allerta terrorismo diffusa con una nota dalla Gran Bretagna a tutti i paesi della coalizione sembra dar forma ai peggiori incubi del vecchio continente, a rievocare cupi fantasmi del passato, l'esplosione del volo Parigi-Brazzaville, con 170 persone a bordo, la bomba a Berlino, i missili su Lampedusa nell'86, il terrore, insomma, portato dal colonnello in Europa. Ora il Reis ferito potrebbe davvero scatenare l'inferno che minaccia? Storiacce di questa settimana va dietro le quinte dell'operazione Odissea all'alba, con uno dei massimi esperti di terrorismo, Eli Carmon, alla guida dell'Istituto Israeliano di Antiterrorismo. Questa influenza dell'atmosfera passa a qualcosa in Egitto? Questi giorni in Siria, dove c'è anche il quartiere generale del Hamas, e dunque i palestinesi anche loro sono influiti da questa atmosfera di ribellione. Gli 007 inglesi, l'MI5, ha diffuso una nota alle intelligence di più paesi segnalando un rischio terrorismo. Secondo lei quanto è concreto? La Libia è differente dalla Tunisia, l'Egitto e anche Marocco e Algeria. Il sistema dittatoriale di Gheddafi era basato in una dittatura completamente personale che controllava i vari tribù. Nel momento che c'è un crollo dell'autorità centrale, c'è una lotta interna, quasi una guerra civile. In questa situazione è chiaro che è molto più facile ai gruppi terroristici, principalmente quelli che si identificano con Al-Qaeda, di forse utilizzare questo momento per organizzarsi e tentare di influire sui eventi dentro del paese. Dunque questo potrebbe trasformare la Libia in un paese come Somalia o Yemen, dove ci sono gruppi connessi al-Qaeda molto forti. Nella Libia ci sono due gruppi che erano attivi nel passato: uno è il gruppo islamico di combattimento libico, e hanno combattuto tanto nell'Afghanistan come in Iraq. Ma il leader di questo gruppo dentro della Libia hanno deciso di rinunciare alla lotta armata e hanno fatto un accordo con Gheddafi. Sono stati liberati come 200 militanti, incluso il leader di questo gruppo. Ma ci sono rimasti nelle prigioni alcune centinaia di membri di questo gruppo, e giustamente nei primi giorni della ribellione Gheddafi ha liberato 100 di questi. L'altro gruppo è Al-Qaeda nel Maghreb, e questo gruppo è attivo principalmente nel Sahel, sud della Sahara, ma potrebbe ritornare nella Libia o essere attivo nella Libia. Cioè Gheddafi davvero riusciva ad evitare attentati? Sì, perché lui aveva interesse di controllare il suo paese, ma forse migliaia di libici sono andati all'estero e hanno lottato in altri paesi. Adesso possono ritornare giustamente e formare questa infrastruttura o la base di un movimento, di un gruppo jihadista dentro della Libia, e se la situazione continua a essere caotica c'è questa possibilità di un'ondata di terrorismo dentro della Libia o a partire dalla Libia. Quali sono, secondo lei, le nazioni in questo momento più esposte a questo rischio terrorismo? L'attività di questi gruppi sarà dentro della Libia. Ci sarà principalmente sia contro il Gheddafi o contro alcuni elementi, diciamo, laici o nemici dentro della nuova leadership libica. In questo quadro forse possono attaccare anche dei obiettivi occidentali, diciamo, di quelli che oggi aiutano i ribelli, ma non credo che la prima cosa che faranno sarà di attaccare obiettivi fuori della Libia. Quindi soprattutto all'interno della Libia. Però una nota, un'analisi dell'MI5, dei servizi segreti britannici, segnala proprio delle tracce investigative che farebbero pensare al rischio di azioni, dicono, contro il neocolonialismo. Dove siamo, facciamo, dicono queste intercettazioni, cioè azioni possibili di cittadini libici al di fuori della Libia contro obiettivi di varia natura. Secondo lei la partecipazione a questa missione, a questa operazione in Libia, in questo momento espone soprattutto quei paesi come l'Italia che fino adesso avevano avuto con la Libia un rapporto anche di amicizia e di collaborazione? Io tento di pensare, leggendo un po' quello che dicono i forum o i siti jihadisti connessi con i libici, loro devono aspettare il risultato della ribellione tanto a Bengasi come nelle altre città, e quando la situazione sarà più chiara è a quel momento che loro devono decidere se lottare anche contro i nemici esterni. È possibile che facciano dei attentati per esempio dentro della Libia contro obiettivi del petrolio, per lottare contro l'imperialismo neocolonialismo occidentale. A mio parere non vedo adesso questi gruppi andare in Italia o in Francia o in Spagna e organizzare attentati in quei paesi, salvo se realmente ci sarà una presenza forse terrestre. Lei dice: non credo che i gruppi possano andare in questo momento al di fuori della Libia a commettere attentati. E l'ipotesi invece di attentati da parte di persone singole, cioè di terroristi fai da te, l'ipotesi di cittadini che siano già presenti, integrati quindi, non so, nella società inglese, come prospetta questa nota dell'MI5, oppure sparsi in altri paesi europei? Singoli terroristi non sono tanto pericolosi come i gruppi organizzati. Una possibilità è se che il gruppo dell'Al-Qaeda nel Maghreb islamico durante gli ultimi 2-3 anni è stato molto attivo nei paesi più deboli come Mauritania, Mali, Niger. Una delle azioni che hanno utilizzato è stato il rapimento di persone, di turisti o anche di lavoratori stranieri come francesi per esempio, per ricevere dei riscatti. E poi i riscatti sono utilizzati per rafforzare la loro infrastruttura militare, comprare delle armi. Quindi è uno scenario rimandato al momento in cui in Libia le cose saranno chiarite. Se la situazione interna dentro la Libia si sviluppa come nella Somalia degli anni 90 o negli Yemen degli ultimi 4-5 anni, è possibile che Libia si trasformi in una piattaforma o un paese fallito dove un gruppo jihadista, Al-Qaeda o no Al-Qaeda, libico o internazionale, possa attuare verso i paesi occidentali. Però non siamo ancora a questo stadio. Questa minaccia esiste nel futuro. Gheddafi è in grado di scatenare questo inferno che minaccia? Non credo che i servizi di intelligence libici, che erano più attivi durante gli anni 80, primi anni 90, quando hanno fatto gli attentati gravi contro gli aerei americani o francesi, che siano attivi ultimamente. Però se lui riesce a sopravvivere, lui può pagare certi elementi, sia jihadisti e anche criminali, per fare alcuni attentati, per tentare di vengarsi o per influire sulla volontà dell'Occidente e paesi europei principalmente di lottare contro suo regime. Da questo punto di vista, secondo lei, può esistere il rischio anche di terroristi o aspiranti terroristi che si camuffino tra i migranti che presumibilmente, come è successo dalla Tunisia, lasceranno la Libia per cercare di arrivare in Europa e quindi soprattutto in Italia come prima tappa? Questa gente sta lasciando Tunisia o Marocco o Libia per ragioni socio-economici, non per combattere Europa. Ma nel futuro pochi possono essere membri di gruppi jihadisti, come è passato con per esempio pakistanesi che si trovano oggi, sono attivi per esempio in Gran Bretagna e anche Spagna, o algerini marocchini che sono attivi in Spagna. Dipende di come sarà vista l'azione dell'Europa, sarà vista dalla maggioranza come una liberazione e non come un'azione colonialista. C'è chi teme però che dalla parte della Libia e quindi dei sostenitori di Gheddafi si possano progettare, gesti eclatanti, quindi attentati, anche per cercare di spaccare spaccare, di dividere la coalizione internazionale che è intervenuta in Libia. Secondo lei è una possibilità, è uno scenario plausibile? Nel passato, quando c'è stata una tensione con l'Italia, credo che ha lanciato dei missili contro Lampedusa. Sì, esatto. Ma non so se oggi tiene realmente questi mezzi, ma è possibile realmente che nel momento di, diciamo, di disperazione o che sta con le spalle al muro possa fare, perché lui è un, sappiamo che non è completamente normale, diciamo, ma d'altra parte si pensa che forse può ricevere qualche asilo in un paese non in Europa, può pagare qualcuno o può utilizzare dei mezzi, per esempio un aereo suicida, forse c'è un pilota che sarebbe pronto a fare questo. Si dice che c'è stato un pilota libico che ha tentato attaccare gli appartamenti dove si trova Gheddafi, in un'azione suicida. Non so se è vero, però potrebbe essere anche farlo all'estero contro un obiettivo in Europa. In teoria, diciamo. L'ultima cosa che le chiedo ancora, professore, se comunque il venir meno di Gheddafi rappresenta una instabilità nel Mediterraneo che darà maggiore possibilità anche a gruppi come Al-Qaeda di reclutare sostenitori. La situazione tanto nel Medio Oriente come in Africa del Nord, principalmente nella Libia, ma anche in Tunisia e forse in Algeria, è una situazione di instabilità, meno possibilità dei servizi arabi di informazione e di intelligence di controllare il loro proprio territorio e dunque di lottare, combattere la possibilità di attentati jihadisti contro l'Occidente. Come tutte le puntate, anche questa la ritrovate sul sito di radio24.it, scriveteci sulla pagina Facebook di Storiacce oppure sul nostro audioblog. Ciao a tutti, a sabato!